Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, cari gastronauti. Spero che abbiate passato un felice Ferragosto, un Ferragosto gioioso, magari che abbiate mangiato molto, ma molto gelato, oppure no, ma ora magari vi diamo delle indicazioni noi sui gelati, perché faremo un tour italiano appunto, per andare a scoprire qual è il gusto del 2012 e soprattutto se si mangia più gelato in Italia. A quanto pare dalle aperture delle gelaterie sembra proprio di sì, ma ora andiamo dai diretti interessati. Come dicevo, un giro dell'Italia delle gelaterie, e allora cominciamo dalla Sicilia. La Sicilia è notissima per la produzione di gelati, nonché di dolci, insomma di granite, e quindi andiamo a Cerda in provincia di Palermo, e andiamo da Antonio Cappadonia della gelateria Cappadonia. Buongiorno Cappadonia. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno a lei. Allora, quale gelato tira da voi nella sua gelateria? Un gelato che quest'anno ha riscosso molto successo e che, ahimè, purtroppo lo si può assaggiare solo rigorosamente in stagione, è l'aver creato un gelato al carciofo. Ah. Il carciofo con le spine. Ah, addirittura glielo stavo chiedendo io, con o senza spine? Con le spine. Con le spine, io rigorosamente con le spine, perché quello con le spine ha un sapore particolare, un sapore amaro, ma un amaro particolare che appunto proprio per il fatto che presenta questo aspetto amarognolo l'ho addolcito con degli agrumi sempre del mio territorio. Ecco. Senta, e quindi, prego. Gli agrumi sono i limoni e le arance, quindi limone, arance e succo di carciofo, quindi il succo di carciofo che contiene la cosiddetta proprietà nobile del carciofo, la proprietà nutrizionale migliore, che è la cinalina. Senta, quindi, volevo chiederle questo, sì. Quando lei parla di carciofo, ecco, quale carciofo ha utilizzato? Un carciofo particolare, vostro siciliano, oppure un carciofo? È un carciofo che cresce nelle campagne di Cerda, è un comune vocato a questa particolare produzione rispetto a tutte le altre cultivar che ci sono, grazie, diciamo, al terreno agricolo. Che presenta delle caratteristiche particolari, il carciofo assume un sapore a sua volta unico, ecco, è inimitabile questo sapore del carciofo. E io ho avuto la possibilità appunto di coniugare, quindi di coniugare il sapore di questo carciofo con gli agrumi, e le devo dire che veramente ha riscosso un plauso e un consenso da parte del consumatore, che è stato molto soddisfacente. Ecco, molto originale questo gusto. Rimanga con noi, perché ora andiamo da un suo collega a Torino, andiamo da Alberto Marchetti della gelateria Principe, così considerata dai gourmet torinesi. Bene, Marchetti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Marchetti, qual è il gusto del 2012, secondo lei, quello più gettonato nella sua gelateria? Beh, quest'anno direi per il 2012 più che un gusto è un abbinamento, è il pensiero che ho fatto è sul gelato abbinato al pane e marmellata e gelato. Per far colazione, insomma. Per fare colazione, esatto, colazione e merenda. Ecco, quale marmellata? Beh, le marmellate, abbiamo una selezione di marmellate anche non troppo dolci, un esempio può essere il mirtillo del Trentino o la pesca per cocca dell'Emilia, sono tutte marmellate, selezioni particolari. Ah, quindi sento, sì, infatti, che sono gusti particolari. Cappadonia, volevo chiederle, ma i gusti tradizionali se ne sono andati? Solo gusti originali? No, assolutamente no, anzi devo dire che assumono sempre più connotazione, più importanza in gelateria. Io parlo e mi riferisco soprattutto ai gelati alla frutta. Ecco, c'è una riscoperta anche da parte del consumatore di mangiare il gelato alla frutta e possibilmente quello con chilometri zero, cioè quello che cresce proprio nel territorio di ogni gelateria di appartenenza. È un qualcosa che si sta risvegliando in quest'ultimo quinquennio, è quello che noto io, anche perché per esempio sui tradizionali mi permetto di citare ad esempio il limone del mio territorio, il limone di Cerda, oppure in questo periodo di luglio, ma benissimo, richiestissimo, sono i gelsi neri di Monreale. Certo. Poi un'altra chicca, le albicocche dell'Etna, fantastici. Fantastici. Marchetti, da lei a Torino come vanno i gusti tradizionali? Beh, direi molto, molto bene. Poi nella nostra gelateria siamo abbastanza tradizionali coi gusti, direi che la crema, un buon gianduia, che è un gusto tipico di queste parti, sono i più gettonati. Senta Marchetti, ma questo gusto al pistacchio che ormai si trova, non dico anche nelle pizzerie, ma ormai troviamo dappertutto, pistacchio di qua, pistacchio di là. Io sono andato più volte a Bronte e di pistacchio ne ho visto sempre poco, ma cos'è? C'è ancora il boom del pistacchio, la gente lo cerca ancora? Ma allora, il pistacchio sicuramente sì, è un gusto che piace. Bronte sono delle scelte, noi usiamo un buon pistacchio siciliano, nella mia gelateria non troverà scritto pistacchio di Bronte, ma pistacchio. Finalmente. È un buon pistacchio che a noi piace, a noi per primi che lo serviamo piace come gusto e i nostri clienti lo apprezzano molto. Bronte sicuramente è un paese piccolo e le produzioni sono quelle che sono, ma ci sono tantissime altre varietà di pistacchio che sono eccezionali. Cappadonia, allora, questo pistacchio di Bronte funziona ancora? Concordo con l'amico Alberto, Bronte è un fazzoletto e ovviamente diciamo che ha un suo valore Bronte, ha un suo pregio. Cioè quello di avere fatto scoprire negli anni la bontà, la rotondità di gusto, che è unica e inimitabile, senza dubbio. Però ovviamente con l'accrescere della richiesta, con il crescere della richiesta ovviamente si utilizzeranno sicuramente altre varietà di pistacchio provenienti da altre nazioni possibilmente, però parlando del pistacchio di Bronte in sé per sé devo dire che è il frutto più buono, più importante, cioè inimitabile. E veda, dottor Paolini, l'Etna, il territorio dell'Etna è tutto ciò che cresce, tutta la frutta secca o frutta fresca che cresce alle pendici dell'Etna, nel territorio dell'Etna, è qualcosa di straordinario, qualcosa di unico. Certo. Quel terreno vulcanico ha delle proprietà uniche al mondo, uniche, per cui ad esempio le posso citare anche, sempre rimanendo su quel territorio, le fragoline di Maletto, ad esempio. Ma direi io preferisco quelle di Ribera, però. Sì, per carità, anche quelle sono delle fragoline nobilissime, ha un terreno meraviglioso. Ma dico, riferendomi, faccio anche l'esempio del fico d'India di Sancono, quindi sempre nel territorio dell'Etna. La Sicilia è qualcosa di una lo sappiamo, Antonio, lo sappiamo benissimo. Ne sono orgoglioso di bene. Siciliano. Bene, grazie ad Antonio Cappadogno. Marchetti, volevo chiedere, ma questo pistacchio che si vede nelle gelaterie, queste montagne di questo colore smeraldo, ma cos'è? Molto verde. Beh, io dico che il pistacchio deve essere verde, ma non verdissimo. Ecco, siamo qua. Forse più tendente al marroncino, io direi. Un po' più tendente al marroncino, esatto. Poi forse il pistacchio è uno di quei gusti che bisogna chiudere gli occhi, assaggiarlo e non guardare il colore, perché poi giustamente anche il colore influenza magari il gusto. Senta, Marchetti, secondo lei quest'anno il gelato ha avuto, diciamo, maggior consumo rispetto agli anni passati o è diventato stazionario? Però il numero delle gelaterie è notevolmente cresciuto in Italia negli ultimi anni. Sì, il numero delle gelaterie cresce, i consumi non so se crescono forse in proporzione, ma comunque il trend è di crescita, perché il gelato va sempre più a sostituire un pasto, tant'è che il pane gelato e marmellata che sto proponendo va in questa direzione, nel senso che si può sostituire la colazione o anche la merenda oltre al pranzo anche con un buon gelato. Diciamo che il gelato è sempre buono a tutte le ore, 24 ore su 24. Bene, io Marchetti la ringrazio, grazie e buon gelato, buon gelato, quindi buon gelato a tutti. Bene, devo fare un'ultima annotazione, che poi parleremo anche di questa, diciamo, scritta che ormai inneggia ovunque: gelato artigianale, ma lo è veramente? Cos'è il gelato artigianale? Ma magari nel proseguo della trasmissione affronteremo, oltre che il discorso del pistacchio, di questi colori così assurdi nei gelati che chissà cosa nascondono, puntini puntini, e devo dire che anche artigianale secondo me è un problema che prima o poi sarà da risolvere. linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Gelato, sempre gelato, fortissimamente gelato. E beh, io si sa che sono un divoratore di gelato e quindi mi diverto ad andare in giro per l'Italia, e ora vado proprio in giro per l'Italia perché farò una cappatina a Milano, una a Firenze e una a Roma. Così scopriremo in queste città quali sono i gusti, diciamo, più gettonati e più richiesti, ma sentiremo anche se quest'anno si mangia molto gelato o si mangia meno degli altri anni. Bene, andiamo in una gelateria a Milano che veramente gode di grandissimo successo, la gelateria della musica. Buongiorno Fabio Brigliadoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a te. Perché si chiama gelateria della musica, Fabio? Perché in passato ho suonato tanto, ed è quando ho deciso comunque di aprire la gelateria non ho saputo trovare altro che chiamarla la gelateria della musica, quindi così giocando un po' su questo abbinamento che può sembrare anche a volte strampalato, ma siamo riusciti a trovare dei giochi simpatici, ecco, soprattutto ad esempio l'abbinamento dei gusti con alcuni nomi di cantanti. Ci faccio un esempio. Allora, Laura Pausini ad esempio inizialmente era stata associata al fior di latte, era ovviamente una nostra percezione personale, finché lei, non assaggiando il gelato, ci ha chiesto gentilmente di essere invece cambiata con la nocciola, visto che è un amante appunto di questo gusto. Poi ce ne sono tanti altri, c'è Piero Pelù ad esempio che si sentiva molto cioccolato piccante, quindi ha richiesto di diventare appunto questo gusto. E invece Elisa ad esempio, che tra l'altro da noi ha mangiato veramente parecchio gelato, ci ha chiesto un gusto un po' particolare, una sua richiesta abbastanza articolata, siamo riusciti a farlo e quindi da quel giorno è rimasto il gusto Elisa. Beh, bene, quindi veramente però quando mettete queste cose dovete specificare anche cosa c'è dentro, perché sennò magari uno prende un gusto che non va bene. Beh, vorrei raccontare anche un particolare che mi riguarda. Anni fa ho ricevuto una telefonata in diretta, si parlava di gelati e un gelatiere pugliese mi diceva che aveva inventato il gusto gastronauta. Bene, io dopo anni sono passato in questa gelateria pugliese, e si chiama Serafino questa gelateria, e quel giorno il gelato, cioè il gusto gastronauta, non c'era. Però ho detto: ma ditemi come lo avete fatto. Cioè, abbiamo fatto gusto Rocher. Vabbè, diciamo che quasi indovinato, perché la nocciola, come per Laura Pausini, è il mio gusto preferito, visto anche la tifoseria calcistica della Pausini coincide anche con me, quindi coincidiamo sia col gusto calcistico che col gusto del gelato, e poi forse sarà l'origine romagnola di tutte e due. Va bene Fabio, volevo chiederti, al di là di questi gusti molto particolari appunto della musica, dei musicisti, qual è il gelato, diciamo il gusto che più va nella vostra gelateria a Milano? In assoluto il pistacchio, anche perché come lei sa ne abbiamo tre differenti tipologie sempre presenti in negozio e veramente ne facciamo un consumo smodato, diverse decine di chili al giorno, in particolar modo quello di Bronte che è leggermente tostato e salato, ma anche gli altri due che sono di provenienza e lavorazione diversa, ad esempio c'è un iraniano lavorato con il cioccolato, sono molto richiesti, quindi in assoluto da noi devo dire che è il gusto più... Ecco, abbiamo parlato proprio, diciamo, 10 minuti fa con due colleghi, appunto abbiamo toccato il problema del pistacchio. Io non voglio tornare su questo, sempre parlare del pistacchio di Bronte, che c'è, non c'è, perché ormai certo. È noto che Bronte ha una produzione limitatissima, basta andare a Bronte certo. E girare per i negozi. Però secondo me è molto interessante questa degustazione di pistacchio che voi fate. Io sono venuto in incognito e l'ho fatta, e diciamo che mi sono molto, molto divertito nel vedere le differenze appunto tra i vari pistacchi, ma su questo torneremo. Ora andiamo a Firenze, andiamo nella gelateria Carapina di Simone Bonini e vediamo Firenze come reagisce ai gusti. Buongiorno Simone. Salve, buongiorno a tutti. Allora, a Firenze, nelle tue gelaterie, che sono due se non erro, qual è il gusto più gettonato dai fiorentini e sicuramente anche dagli stranieri, perché Firenze nella zona appunto di una delle tue gelaterie è frequentata da stranieri? La differenza l'hai detto tu, esatto, la gelateria, il nostro punto vendita in centro magari ha una richiesta maggiore di frutta, e devo dire mi fa piacere perché in maniera molto osservante la stagione i turisti chiedono proprio solamente, mentre l'italiano, tra virgolette, nell'altro punto vendita che abbiamo nella zona residenziale che tu conosci, molto, molto, diciamo, un quartiere in, viene chiesto i gusti più classici. Noi pian pianino da sempre abbiamo introdotto una nostra linea, che è quella del gelato, fra virgolette, ormai chiamato gastronomico, ma non è che mi piaccia come nome, forse andrà trovato un nome diverso, di cucina. E quali sono questi gusti di cucina? Vediamo. Ma da sempre proponiamo, non per avere i titoli sui giornali, ma proprio come forma mentis, proponiamo tutti i formaggi, molti formaggi, sempre più infusioni. Ecco, qual è il formaggio più richiesto? Ma devo dire che io, quando ho iniziato 4 anni fa, ho fatto subito il gorgonzola, proprio per fare un po' di rumore e far capire che si poteva fare un abbinamento nel periodo di stagione gorgonzola e fragola, faccio per dire, ed era è buonissimo. Poi dopo ho iniziato parmigiano, pecorini, i vari pecorini, che ce ne sono a bizzeffe su e giù per l'Italia, basta girare, la stessa mozzarella. Io la chiedo e consiglio ai nostri clienti di prenderlo e servirlo come entrée. In sostanza entrano da noi per prendere un cioccolato, faccio per dire, un pistacchio, e in realtà se ne vanno via con un pecorino e un pomodoro che servono come antipasto. Bene, rimani con noi perché ora facciamo il giro d'Italia, continuiamo, andiamo a Roma, sì. Andiamo nella gelateria Fata Morgana da Maria Agnese Spagnuolo. Buongiorno Maria Agnese. Buongiorno a lei. Volevo chiedere, il gelato come va? Tutto bene? Il gelato tutto bene, sì, questo è il periodo, è il suo periodo, per cui è alla grande. Ecco, volevo chiedere, i gusti della sua gelateria più, diciamo, più richiesti, quali sono? I gusti più richiesti sono dai classici, qui il cioccolato puro del Madagascar, il puro del Venezuela, per cui ha un cioccolato che è oltre il 60%, e il pistacchio, di cui abbiamo due varianti, anche tre, il pistacchio che è di Bronte, in Sicilia. E il pistacchio proviene dalla Siria, il siriano, sì. Anche il turco e anche il greco. Quindi ne avete quattro, ben quattro di pistacchi, sì. Interessante questo. Quindi si possono fare delle degustazioni comparate? Esatto, è quello che mi piace mostrare alla gente, proprio la provenienza e le qualità organolettiche dei pistacchi, delle mandorle, anche di tutta la frutta secca che c'è. Sia in Italia la migliore e anche nel mondo. Ma mi sembra di capire quindi che Roma è molto tradizionalista sul gelato, su questi gusti. Sì, sì, è molto tradizionista, anche se noi proponiamo varianti anche un po' più spinte, visto che la Fata Morgana è un po' fata, per cui pentoloni, si cucina tutto dalle salse di frutta anche al caramello. E tutte le spezie vengono tritate, sono genuine, sono quello che la gente poi richiede nel gelato anche. Ci dice un gusto estroso che voi fate al di là di questi classici che ci hai elencato? C'è la Venere Rosa, che sarebbe un riso nero, che si chiama Venere, sì. E questo viene cotto nel latte, dove prima c'è stato un infuso di bocciole di rosa moscata, per cui questo è benissimo. Prego. Anche sorbetti come il mojito alla marena o la mela mandorla e cannella. Bene, scopriamo sempre di più che la professione del gelatiere è una professione non più come un tempo, nel senso che non è che si facciano solamente gusti classici, quindi, ma si pensano anche dei gusti particolari. Insomma, siete diventati un po' anche, diciamo, cucinieri in un certo senso, mescolatori di sapori e di profumi, è così Maria Agnese? Esatto, qui infatti si tratta di cucina, chi più sa è come un vocabolario, chi più sapori sa abbinare, associare, meglio insomma si presenta anche al pubblico. Quindi bisogna avere anche molta molta fantasia. Grazie Maria Agnese Spagnuolo, Fata Morgana di Roma. Torniamo un secondo a Milano, a Fabio Brigliadoro. Volevo chiedergli questo, Brigliadoro, ma voi avete in mente qualche cos'altro oltre alla musica ora, qualche gusto nuovo? Ma devo dire che qui si lavora molto con la fantasia praticamente tutti i giorni. Adesso stavo ascoltando, interessato, i racconti dei colleghi. Effettivamente è proprio così, siamo quasi ormai diventati dei cucinieri veri e propri. Di conseguenza, giornalmente, quando ci si trova a lavorare con la materia prima, possono nascere dei gusti un po' particolari. Ad esempio, forse lei conosce il nostro pane, burro e marmellata, tanto per citarne uno. Una cosa che ripeto sempre a tutti i clienti che mi chiedono che cosa inventi domani, la risposta è sempre la stessa. Non lo so, anche perché se fosse premeditato probabilmente non sarebbe un'invenzione. è un qualcosa che nasce spontaneamente la mattina quando ci si trova qui a lavorare. Quindi domani un altro giorno si vedrà, insomma. Grazie. Grazie a Fabio Brigliadoro, Gelateria della Musica di Milano. Ora torniamo a Firenze, dalla Gelateria Carappina di Simone Buonini. Simone, tu che sei un attento osservatore, l'andamento del gelato quest'anno com'è? È in crescita o in calo rispetto al passato? No, sì, sicuramente è in crescita. Devo fare un po' di polemica, d'altronde i fiorentini lo sono, credo che forse anche i colleghi che mi hanno preceduto avranno visto sia a Roma che a Milano aperture ormai seriali, indiscriminate. Credo che sia il momento a questo punto di parlarne veramente, e per fortuna ci sono trasmissioni come questa, in maniera veramente tecnica, andare un po' più a fondo, perché altrimenti si sta vedendo un fenomeno di copia e incolla, proprio ripeto, in maniera seriale, mi viene questo termine, in ogni angolo. Noi su Firenze, poi una città che è un quartiere di Milano o di Roma, lo soffriamo particolarmente, è innegabile girare a piedi e vedere veramente, è una cosa anche forse bizzarra, ogni 100 metri c'è effettivamente una gelateria. Se in più ci mettiamo i bar che hanno i gelati e poco ci manca le falegnamerie che hanno il frigorifero con il gelato, veramente c'è una diffusione ormai capillare, ecco. Sono un po' le fontanelle che c'erano nelle piazze, le gelaterie in questo momento. Quindi sulla qualità sì, si fa molta più attenzione, esatto, chi mi ha preceduto è testimone, c'è un'attenzione maniacale, noi lo siamo, la mattina ci ritroviamo e facciamo questo, facciamo quello, ho visto quel frutto, proviamo a abbinarlo a... In realtà molte situazioni sono scavalcate e secondo me in questo momento fanno sempre più risorsa, si rivolgono sempre più all'industria, gli dicono guarda, devo fare questo gusto, fammi il vin santo, e con dei miglioratori, con situazioni abbastanza bizzarre, creano il gusto. Bisogna sempre, adesso è un momento di fare veramente educazione al gusto, chi ha il cliente davanti deve cercare di fargli capire che al gusto ci si arriva con latte, uova, panna, zucchero e tanta, tanta, tanta volontà e passione. Grazie, grazie a Simone Buonini per questa chiosa, poi ne farò uno anch'io nel proseguo sul discorso delle aperture delle gelaterie. Ora passo il cono vuoto alla regia, torneremo fra poco per riempire il cono di nuovo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, sempre con il cono in mano, la vaschetta, mangiare gelato e andare in giro per l'Italia per ascoltare appunto tanti gelatieri, i quali sono cresciuti, crescono a vista d'occhio, basta andare per le vie delle città, diciamo, più importanti per vedere addirittura una gelateria attaccata all'altra, una cosa veramente incredibile che sta succedendo, e non so se per la liberalizzazione appunto delle licenze o soprattutto se c'è il boom del gelato oppure se la torta del gelato è sempre quella e invece crescono i numeri di coloro che vogliono appunto portarsi a casa una parte di quella torta, ma questo lo vedremo durante il proseguo di questa trasmissione. Allora, ora andiamo però a Salsomaggiore Terme, alla gelateria Sanelli, e andiamo da Corrado Sanelli. Perché? Perché Sanelli da anni produce un gelato molecolare, ma ora ci spiegherà. Molecolare è una cosa così, è una parola che mi sembra due anni fa avesse creato anche il panico, ci fossero state delle discussioni inutili e stupide su questo, anche perché fatte da gente molto impreparata e quindi che vedeva molecolare uguale chimica, non è assolutamente così. Vero Sanelli? È verissimo, verissimo. Cioè, molecolare è una parola fuori luogo, come ha sempre detto anche il professor Davide Cassi. Di cui tu sei allievo, di cui tu sei allievo e quindi hai imparato a fare il gelato con l'azoto liquido, così, sì, no? Sì, sì, sì, sì, abbiamo a disposizione un freddo formidabile, 196 gradi sotto zero, pronti all'istante, come per un fabbro avere il braciere ben caldo, no? A questo punto noi possiamo utilizzarlo come vogliamo. Io faccio gelato che diventa una testura meravigliosa, eccetera, eccetera, però lo uso anche, per esempio, ieri sera è venuto un cliente, ha voluto una torta, in un quarto d'ora gli ho fatto una torta a tre strati, uno strato un po' di azoto, l'indurimento istantaneo, un altro strato, insomma io ho contentato un cliente che non perderò mai più, penso, perché gli ho fatto un piacere enorme, dato che era il suo compleanno. Senti Corrado, volevo chiederti questo, perché questo è importante. Qual è la reazione? Qual è stata la reazione? Ormai sono diversi anni sì. che voi con la Salso Maggiore diciamo producete il gelato in questa maniera, però immagino che i primi tempi sono stati un po' duri, perché la gente non credo che avesse reagito così tranquillamente. Allora, ecco, questa era la mia paura, specialmente di mia madre che fa gelato dal 1949, diceva avremo un brutto impatto con i clienti perché avranno paura, non saranno. Invece no, il 95% hanno accettato, anzi vogliono che io continui a fare il gelato con l'azoto e vengono e mi chiedono che cosa hai oggi con l'azoto. E poi qui abbiamo fatto anche un lavoro molto positivo con le scuole. Io sono andato per 2 o 3 anni nelle scuole e ho fatto il gelato davanti ai bambini con l'azoto, per cui qui nella nostra zona fare il gelato con l'azoto è una cosa normalissima. Ma non solo qua, perché ho insegnato tantissimi colleghi. Addirittura è venuto uno di Bari proprio la settimana scorsa, vuole aprire una gelateria e farla funzionare solo con l'azoto addirittura. Senta Sanelli, perché voi avete la gelateria con l'azoto, ma avete anche la gelateria tradizionale, così? Non, allora, la nostra base è gelateria tradizionale, no? Però tengo sempre il bidone dell'azoto pronto, che vado a riempire 2 o 3 volte alla settimana, un bidone da 35 kg, e uso l'azoto quando mi serve, quando è il momento, magari o sono in ritardo, oppure ho un gusto particolare che deve essere particolarmente cremoso, oppure ho un gusto che va poco, ad esempio, per 3-4 giorni con l'azoto mi rimane un gelato spattolabile e cremoso e formidabile. Senta, perché questi cristalli così piccoli aiutano a mantenere morbido il mio prodotto. Senta Corrado, quali sono i gusti più gettonati con l'azoto? Io faccio molto volentieri con l'azoto lo zenzero, perché mi dà quella marcia in più. E poi faccio molto volentieri i gelati ai fiori, ad esempio, non so, in primavera fiorisce la viola e faccio il gelato di viola, oppure il gelato di a seconda dei momenti, ecco, il gelato di sambuco, ad esempio, quei fiori del sambuco a Monte, ecco, lì uso volentieri l'azoto perché mi dà un po' più di gusto, non me lo congela, quindi, dato che sono gusti delicati, faccio l'estratto direttamente dal fiore fresco, per cui non ho quella potenza, di quell'incisività di gusto, è un gusto che viene fuori adagio e quindi l'azoto mi aiuta a incentivare il gusto. Bene Corrado, rimanga con noi, ora andiamo a Udine da Giancarlo Timballo, la gelateria Fior di Latte, un personaggio importante nel mondo del gelato. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a tutti, grazie dell'importante. Senta Giancarlo, con lei voglio fare, cioè voglio discutere un po' di questo proliferare delle gelaterie. Ma cosa sta succedendo? Io ne vedo ogni giorno per le strade di Milano, vedo nuove gelaterie, ma c'è veramente un boom? Vuol dire che c'è un boom del consumo del gelato? Questo è un boom che continua da ormai da 20-30 anni, non si è mai fermato, ogni anno aprono nuove gelaterie, tante ne aprono, purtroppo tante ne chiudono, perché chi si improvvisa a fare il nostro mestiere spesso, quasi sempre, non ha un futuro. Ne aprono tante perché è ancora un mercato che funziona, noi gelatieri abbiamo ancora dei trend positivi nonostante la crisi, in questi ultimi anni abbiamo comunque sempre aumentato il nostro fatturato, insomma a seconda delle stagioni più o meno, ma l'abbiamo sempre aumentato, vuol dire che è diventato forse un prodotto rifugio anche, no? Cioè chi non riesce più ad andare a cena con la famiglia va a mangiare la pizza, chi non riesce più a mangiare la pizza va a mangiare il gelato, si scalano un po' i valori, io mi sono fatto un po' questa ipotesi che potrebbe essere veritiera. Senta, volevo chiederle questo, lei anni fa era stato uno dei primi a fare il gelato all'olio d'oliva. Ora cosa c'ha? Quest'anno ha lanciato qualche cos'altro? Ma il gelato all'olio d'oliva è stato un po' il precursore dei gelati gastronomici. Siamo partiti da lì e per rimetterci in contatto con l'alta gastronomia, che è comunque il luogo dove è nato il gelato nella storia più recente. Il gelato gastronomico è comunque un gelato che va servito nel piatto, non va mangiato col cucchiaino leccato nel cono, chiaramente va sempre accompagnato a un cibo. Su questo argomento noi ci stiamo lavorando, dico noi perché sa che sono rappresentante un po' anche della Coppa del Mondo di Gelateria che si svolge a Sigel di Rimini ogni 2 anni e abbiamo proprio inserito nell'ultima edizione una prova anche di gelato gastronomico inserendo all'interno della squadra anche un cuoco. Questa è stata un'operazione molto interessante perché ha permesso di mettere in contatto queste realtà diverse ma il cuoco assieme al gelatiere, anche il pasticcere in mezzo per fare le decorazioni, cioè ci stiamo veramente dando una mano uno con l'altro, sono categorie molto, molto vicine ma che hanno tutte da imparare una dall'altra. Quindi non è che il gelatiere diventa cuciniere, ma diciamo no, fa un gioco di squadra. Si mette a disposizione del cuoco, il cuoco utilizza degli ingredienti che noi non usiamo mai, ci può dare degli abbinamenti che noi non, per noi sono molto arditi, ma poi in effetti quando si va a confezionare il piatto diventano veramente molto interessanti. Ma chi ha vinto l'ultima Coppa del Mondo di cui parlava? Quest'anno 2012 l'ha vinta l'Italia per la terza volta. Con un gusto particolare, un piatto particolare? Beh, le prove sono veramente molteplici, La squadra è formata da quattro professionisti, ci sono moltissime prove, anzi insomma, dottor Parini, la invito alla prossima edizione a vederla, questa gara è veramente molto interessante. Sui gusti ci chiedono ogni anno, no? I media, la stampa, i giornalisti ci chiedono qual è il gusto dell'anno, che gusto andrà di più o di meno. Io credo che nel nostro lavoro l'artigiano gelatiere ha questa possibilità in più rispetto ad altri mestieri, che è quella di trasformare i prodotti in tantissimi prodotti, tantissimi ingredienti, e se è un bravo artigiano ed è un professionista serio riesce a trasformare anche i prodotti del suo territorio, che è forse un termine anche troppo usato in questi ultimi periodi, no? Questo discorso del territorio, del chilometro zero, però per noi è vero. Sanelli diceva prima che in primavera fa il gelato con i fiori e sono felice di non essere solo a farlo, forse siamo sempre di più a trasformare anche i fiori della natura in gelato. Ecco, questa è una possibilità che noi abbiamo e questo che ci dà questa cosa in più rispetto al nostro cliente, che ci permette anche di essere un po' sempre all'avanguardia, di creare prodotti nuovi, ma soprattutto di prodotti che sono personalizzati. Ecco, rimanga con noi perché poi le voglio chiedere una cosa su quel sostantivo artigiano. Ora però andiamo all'Albero dei Gelati a Seregno, è un gruppo di gelaterie, non solo a Seregno. Buongiorno da Alessandro Trezza. Buongiorno a tutti voi. Oltre a Seregno voi avete altre due gelaterie, se non erro? Sì, abbiamo due gelaterie in Brianza, una a Barlassina e una a Cogliate. Ecco, la vostra gelateria tutta bio? Sì, principalmente utilizziamo prodotti biologici oppure di piccoli produttori che conosciamo personalmente, dove non hanno la certificazione ma abbiamo la garanzia di chi le cose le fa e lavora il campo, e quindi una garanzia personale ancora più forte. Come ha reagito, diciamo, il consumatore di gelati al discorso bio? È un plus, lo vede come un plus questo e quindi capisce, oppure dovete spiegarglielo di volta in volta? Allora, noi amiamo spiegarlo sempre di volta in volta, però riscontriamo che comunque l'attenzione sul biologico, sul prodotto naturale a 360 gradi, quindi anche su un sistema sostenibile di produzione, l'utente è sempre più attento e ama il nostro prodotto anche per quel motivo. Senta Trezza, qual è il gusto che quest'anno ha avuto così la supremazia rispetto agli altri? Noi abbiamo fatto una scelta un po' di salutistico nel gelato, nel senso che abbiamo creato una linea di gelati totalmente senza lattosio e per intolleranti e sta riscontrando un forte successo. Uno dei più importanti è anche quello che abbiamo fatto da poco, studiandolo con dei ragazzi toscani, con l'utilizzo della spirulina come base. Questa alga appunto che viene prodotta in Toscana, da due ragazzi tra l'altro brianzoli che si sono trasferiti lì, e utilizziamo appunto un'infusione di spirulina all'interno di un fior di latte con dei petali di fiori freschi anche noi. Quindi la spirulina è, diciamo, il gusto 2012 per l'Albero dei Gelati. Bene, grazie Trezza, grazie. Quindi abbiamo detto Seregno, Barlassina e l'altro che non ricordo? Cogliate. Cogliate. Bene, torniamo a Timballo. A Timballo io voglio chiedere, ha usato due o tre volte la parola artigiano. E allora, vi siete messi d'accordo su un disciplinare per definire il gelato artigiano e non artigiano? No, purtroppo non ci siamo messi d'accordo, ancora non c'è una normativa in Italia che disciplina questo termine, però è chiaro che in senso generale la parola artigiano definisce un professionista che utilizza le sue mani, la sua professionalità e produce un prodotto con le sue forze. È proprio per questo motivo che, come dicevo prima, che il gelatiere ha questa possibilità di differenziarsi. Siamo circa 30.000 produttori in Italia, pare. Potremmo essere tutti diversi uno dall'altro se tutti fossimo degli professionisti e degli artigiani veri. E chiaramente questo non è, ma il mercato insomma è molto vasto, così come succede anche per altre categorie gastronomiche, probabilmente per i ristoranti o per le pasticcerie, ci sono i veri artigiani e quelli altri non so come definire altre figure che utilizzano prodotti semilavorati o che lavorano in maniera più veloce, più rapida. Ecco, lei ha detto usano le mani e usano le forze proprie. E chi usa semilavorati? Ma sì, semilavorato comunque lo utilizziamo tutti, questo è da sfatare. Cioè, per noi semilavorato è anche chiaramente la pasta di nocciola o di pistacchio. Noi non riusciamo a raffinare la nocciola nel nostro laboratorio, così come il cuoco, il grande cuoco, anche lo stellato usa i pelati, la confettura di pomodoro, insomma, per intenderci. Sono prodotti primari che comunque hanno bisogno di una prima lavorazione per essere utilizzati. Ecco, questi sono i semilavorati nobili che comunque danno comunque un valore in più al gelato. All'interno del mondo dei semilavorati poi c'è di tutto, c'è il prodotto assolutamente pronto. Insomma, questa è una scelta del gelatino, ma insomma, poi il cliente che fa la differenza, alla fine è sempre questo. Certo. Il cliente che fa la differenza, che va a scegliere, che fa un chilometro in più, 2 chilometri in più, 10 chilometri in più. Per mangiarsi un cono. Ma certo. Grazie a Giancarlo Timballo, Fior di Latte Udine, grazie a Corrado Sanelli, Gelateria Sanelli, Salso Maggiore Termo, linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. A forza di parlare di gelati mi è venuta veramente voglia di un cono, oppure di una vaschetta, oppure anche di mezzo chilo, così, ma magari sotto, di mangiarlo come mi succede di solito. Sì, lo confesso, sono un divoratore di gelato, ma continuiamo nella nostra trasmissione, continuiamo questo giro d'Italia e andiamo a Roma al Settimo Cielo, da Mirella Fiumanò. Buongiorno Mirella. Buongiorno, Settimo Gelo. Ah, ecco, vedi, è vero, ho fatto un lapsus io, chissà perché ho pensato al Settimo Cielo, l'ho portata al Settimo Cielo, va bene lo stesso. Va benissimo. Tra l'altro la conosco la gelateria, quindi chissà perché ho fatto questo lapsus forse freudiano, pensavo di volare a Roma, appunto. Certamente. Senta Mirella, a Roma mi dicono che i gusti, diciamo, più richiesti dal consumatore, dal cliente, dall'amante dei gelati, sono quelli classici. È così? Assolutamente sì, è vero. Così. È vero. Gli altri gusti, diciamo, anche che poi, anche se poi vengono molto apprezzati, comunque ci si avvicina sempre per curiosità, che non per piacere proprio, insomma, è una curiosità che spinge le persone ad avvicinarsi ai nuovi sapori e poi magari apprezzarli o no, ma comunque, insomma, i gusti classici sono sicuramente quelli che ottengono la maggiore richiesta. Ecco, fra i gusti classici, qual è quello, diciamo, che più di ogni altro il romano, oppure anche lo straniero di passaggio a Roma, perché c'è anche questo, quindi vi chiede? Allora, lo straniero sicuramente il pistacchio e il caffè. Il romano, diciamo, il romano varia un pochino di più, nel senso che il cioccolato comunque è un gusto classico sia d'estate che d'inverno e nella sua forma più semplice. Seguono poi comunque il pistacchio, la fragola, la crema, diciamo che la nocciola, siamo sempre sui gusti, sempre certo, molto molto, diciamo, antichi, chiamiamoli così. Ecco, lei è tra quelli che producono gelato artigianale, che sempre di più pensa a gelati complessi, cioè gelati quasi da cuoco, oppure vuole rimanere ferma su questi gusti tradizionali? Ma io diciamo il gelato, diciamo che i gelati ci sono alcuni gusti che sono molto complessi, che sono anche una ricerca dovuta anche, al di là del gusto, alla curiosità di mettersi alla prova, di comunque di vedere come viene. Però ecco, io e i miei collaboratori, insomma, siamo delle persone che il gelato deve essere un dolce, per cui deve partire, ecco, non mi cimento nei gusti salati, preferisco rimanere un po' nel tema del dolce, con le varie variazioni, magari chiaramente partire dalla pasticceria, da un dolce tipicamente pasticcero, per poi trasformarlo in un gusto di gelato. Questo sì. Ci faccio un esempio. Per esempio, allora, un ultimo nato, ultimissimo, che ha pochissimi giorni, devo dire, l'abbiamo chiamato Terra Rossa in onore della Puglia, che praticamente nasce da un dolce pugliese di ricotta con una riduzione di primitivo di Manduria. E ciliegie ferrovia, che sono ciliegie, certo, molto buone, sì. Esattamente. E noi l'abbiamo trasformato, abbiamo fatto vari tentativi e l'abbiamo trasformato in un gelato. per cui è venuto con l'abbiamo variato, l'abbiamo chiaramente modificato nel corso delle varie prove che abbiamo fatto, fino ad arrivare a un risultato che secondo noi è molto buono, di un gelato alcolico perché non pastorizzato, fatto di ricotta di pecora purissima, con una riduzione di primitivo di manduria con le ciliegie ferrovia, che tra l'altro non è così semplice reperire. Vero, verissimo. È vero, e devo dire che il risultato è buonissimo, perché è venuta poi una granella di ricotta con questo sapore, diciamo, secondo me estremamente delicato. Mirella, io la interrompo perché sennò la voglia del gelato cresce, certo, troppo. Io devo continuare nella trasmissione. Grazie a Mirella Fiumanò, al settimo gelo, ripeto, di Roma. Bene, continuiamo questo viaggio. Ora andiamo in Piemonte, andiamo da un grande intenditore di gelati, che è anche gelatiere, ma veramente sa anche, scovare in giro per l'Italia le gelaterie, uno che si definisce Trova Roba, Tonino Strumia, buongiorno. Buongiorno dottore, buona giornata a lei. Allora, Strumia, qual è la tendenza del 2012? Lei è molto attento su questo. Ma la tendenza, a dire la verità, c'è un posto, nostre gelaterie, così io le chiamo un po' alla veloce, no? E fanno mille gusti, ma tutti con questi, preparati che lasciano molto a desiderare. La tendenza, cioè, appunto, stanno premendo fare questi gelati, ho sentito adesso la collega che ne parlava, lei non le fa, ma anch'io non le faccio molto, su quelli così portati un po' sulla ristorazione, no? Ma vedo che poi la gente fa e poi ritorna, a parte i classici. Noi per esempio è anni che facciamo il gelato al Barolo Chinato, alla mostarda d'uva, alle mele cotte del Roero al forno, noi le vendiamo, io non è che faccio i numeri, però ho il cliente che viene apposta a comprare questi gelati, capisce? Quindi lei dice che prima o poi si tornerà sempre di più al classico, almeno al cucinato, al gelato cucinato. Ma io penso di sì, anche perché poi questi grandi cuochi bisogna anche avere la bravura che hanno loro a fare certi gelati, non dimentichiamolo questo. Strumia, rimanga poi con noi, perché ora andiamo a Sapri, andiamo da Enzo Crivella della Cioccolatera. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Lei cosa ne pensa appunto di questi gelati cucinati? Guardi, io sentivo, io faccio una storia a parte che è legata un po' alle mie conoscenze, appartenenza alla Slow Food, quindi io porto avanti il discorso del territorio, ma non così giusto per fare vetrina, nel vero senso della parola, perché sono un attento ai prodotti anche per dare visibilità ai produttori, e quindi mi rendo conto, per esempio, anche quando proponiamo dei gelati un po' sofisticati, alla gente comune non piace. Il gelato è un prodotto molto popolare, quindi è difficile trovare una fascia attenta al palato, però quindi diamo grande importanza ai prodotti, quindi uso ricotta di capra, uso i fichi del Cilento, uso il miele, e la mia base è fatta con questi prodotti qua, cioè un bilanciamento fatto di zucchero, miele e latte e panna fresca. Quindi uso la ricotta di bufalo, perché ho un'altra gelateria a Salerno che si chiama Crio, e dove lì uso la bufala, mentre a Sapri uso la ricotta di capra. E quindi questi abbinamenti e con questa influenza molto vicino alla Sicilia, quindi faccio un gelato anche un po' anche salato, insomma, del pistacchio. Da noi è proprio da questo senso di dolce salato. Che ma deve essere così, quello vero deve essere così. Sì, sì, in effetti. È quello che dicevo, ogni tanto propongo dei gusti così, però mi rendo conto che per essere più gradevole, piacevole e al palato, l'unica cosa è quella di dare dei prodotti del posto, perché naturalmente è inutile che io faccio un gelato che si fa in Piemonte o che si fa in Lombardia, faccio un gelato del Cilento, con le caratteristiche il Cilento, questi prodotti noi andiamo a nozze, perché c'è di tutto, poi qualche provocazione facciamo, tipo per esempio un gelato che feci a Gambe Rosse sui ceci di Cicerale, però quella è un'altra cosa, perché serve anche per dare questa visibilità che le dicevo prima, lo facciamo per i produttori, per aiutarli, e quindi creargli una strada dove loro possano anche cominciare a vendere e farsi conoscere. Però certo, Niente male, perché ogni tanto viene qualcuno che vuole questo gelato ai ceci. Bene, Crivella, io la ringrazio, lo ripeto, Cioccolatera di Sapri, e poi a Salerno come si apre la gelateria di Salerno? questi Salerno, per esempio, poi sentivo la signora prima che sì. diceva che lei prende spunto, capita anche a me di prendere spunto dalla pasticceria, per esempio, chiedendo l'autorizzazione a Luca Mannori, che ha fatto la Sette Veli, che va a Ruba, e so che anche in Sicilia sta andando a Ruba. Poi dopo un articolo che mi fece su un giornale, questo pare che anche la grande industria adesso vorrebbe fare un prodotto, però farlo così direttamente è tutta un'altra cosa, certo. perché siamo un pan di Spagna fatto da noi, questa glassa che è lucida che facciamo noi, i sette strati col croccante, quindi questo nuovo modo di porsi in gelateria, la gente non riesce a capire se mangia un dolce o mangia un gelato. Eh beh, deve essere così, insomma. È interessante. La gelateria porta anche questo. Grazie, la ringrazio. E un'ultima battuta a Strumia, mi sembra. Strumia è ancora con noi, sì? Sì. Mi dici quale sarà il gusto del futuro, Strumia? Ma adesso vedo molto sterminamenti, non so, gianduia, arancio, cioccolato arancio, ecco, quelli potrebbero magari avere un risvolto. Poi cioè, ognuno crea delle cose un po' particolari, non so, il caramello col sale rosa dell'Himalaya, qualcuno fa la mandorla con dei mieli, sentivo il signore che usa molto miele, questo mi fa molto piacere perché io sono un patito del miele. No, diciamo che lei ha la mieloteca più importante d'Italia, lo dico io. Beh, lei non la vuol dire, ma lo dico io. Grazie Strumia, grazie, lo ripeto, lei, dottore. Strumia, cercatore di cose buone di Sommariva Bosco in provincia di Cuneo. Credo che siamo arrivati in fondo. Bene, la voglia di gelato è cresciuta, io spero che anche a voi, cari radioascoltatori, sia nata la voglia del gelato. Magari fermatevi se siete in fila, dovete fare ore di fila perché oggi mi sa che sia una giornata molto dura, uscite e andatevi a mangiare un bel cono di una gelateria, magari che, come abbiamo sentito, che usi frutta fresca, usi prodotti freschi e non, come si dice, non turlupini, mettendo dei cartelli un po' particolari, magari quello di artigiano e artigiano non lo è. Quindi io vi do appuntamento domani alle 18 con la replica di questa trasmissione, vi do appuntamento anche col riposo del guerriero e anche con alle 11.05, 23.05 ogni giorno da lunedì e venerdì con la pillola del gastronauta. Buon weekend a tutti da Davide Paolini.